questions, then stay behind and ask them. If not, and you want to carry on walking meditation, please do so. Persone tra di voi che non c'erano prima, che stavano lavorando e hanno delle domande, si possono fermare un attimo a farle, se no procediamo tranquillamente tutti con la meditazione camminata. Di solito sia il testo che gli altri maestri, no? Distinguono cioè, il corpo, le sensazioni, gli oggetti mentali e gli stati mentali, no? Questo in genere è la distinzione, cioè praticamente il corpo, le sensazioni, gli oggetti mentali, cioè i pensieri e gli stati mentali. E invece il venerabile parla del cuore e delle, quindi fa questa ulteriore come dire, classificazione, o comunque ecco, volevo sapere come mai, cioè quali nel cuore, quali di queste cose che ho annunciato inserisce nel cuore. But usually in the teachings, other teachers make distinctions between basically the four main categories that correct, which is the... Can you hear? Yeah. Just a bit louder. Can you repeat the four? In genere sì. Il corpo, so, le sensazioni, body, feelings, gli oggetti mentali, cioè i pensieri, mental object, e gli stati mentali, and mental state. E invece appunto il venerabile parla del cuore, e cioè fa una distinzione tra la mente e il cuore con le emozioni, quindi nel cuore inserisce le emozioni. You're making a distinction between mind and heart, and in the heart we seem to be putting the emotions. Would you like to have some clarification about this? Yeah. In the Satipatthana discourse, which is the, you know, the main teachings of the Buddha around the Vipassana, he makes four categories. Nel discorso del Satipatthana, che è il discorso principale dell'insegnamento della Vipassana del Buddha, vengono elencate quattro categorie. The first one is the body. Primo il corpo. And what he means by that are basic sensations. E cosa si intende per corpo sono sensazioni fondamentali, which we know as the four great, what they call the four Mahabhuta, the four elements. Thank you. The four elements. Che vengono di solito categorizzati come i quattro elementi. Yeah, so that's the feelings of pressure, lightness and heaviness. Sensazioni pressorie, quindi leggerezza, pesantezza. Any feelings of temperature, cool and heat, cold and heat. Qualsiasi cosa collegata alla temperatura, freddo, caldo. Any feelings of elasticity. Qualsiasi sensazione che riguarda possibilità di elasticità, quindi di espandersi. Yeah. You know, stretching and feeling compressed. Yeah? Quindi appunto sensazione di potersi allungare oppure di poter essere compresso. This is the water element. L'elemento acqua. Yeah? And sensations of movement. Quindi sensazioni di movimento. Yeah. When this is at a gross level, then it's the breath or movement of the hands, anything to do with that level of the body. A livello grossolano è muoversi dal respiro, le braccia, qualsiasi movimento del corpo. Yeah. I tend to refer to all that as sensations. Io ho la tendenza a riferirmi a tutte queste cose con l'etichetta di sensazioni. The next one is what we discussed the other day, vedana or feeling. L'altro aspetto, ciò che abbiamo discusso l'altro giorno, è vedana. Nel sottotermine vedana vanno queste emozioni. Mm. So vedana covers both feelings in the body and emotional feelings in the body. Sì. Ma vedana come termine raggruppa sia le sensazioni che le emozioni percepite nel corpo. Yeah. And did you say and physical feelings? Yes. Yeah. Both. In the body. Yeah, in the body. Mm? Nel corpo, entrambi questi due aspetti nel corpo. Yeah. The distinction here is that we perceive them as pleasant or unpleasant. La distinzione che si fa qui è che noi le percepiamo come gradevoli o sgradevoli. Then there are this whole area of sankhara, mental formations. Poi c'è tutta l'area dei sankhara, quindi delle formazioni mentali. Which in the discourse is called citta. Che nel discorso, nel tutta, viene denominato sotto il termine citta. Citta. And we usually translate as states of mind. Che solitamente viene tradotto come stati mentali, stati della mente. So these I translate as those things to do with the heart and mind. Io li traduco con tutti quegli aspetti che hanno a che fare con la mente e cuore. It's when an emotion becomes a felt emotion with all those thoughts. Quando un'emozione inizia a essere un'emozione sentita con tutti i pensieri che ci vanno appresso. Mm. So I feel heavy. This is a feeling. Allora io sento una sensazione di pesantezza. Questa è una sensazione. Mm. But then I perceive it as depression. Ma poi lo percepisco come depressione. And then I have depressing thoughts. E poi ho dei pensieri deprimenti, depressi. Mm. So this is what the Buddha is referring to as citta. Il Buddha si riferisce a questo processo con il termine citta. Mm. And if you look at the list, you'll see it's all the cittas to do with greed, all the cittas to do with hatred, all the cittas to do with delusion. Se guardiamo il discorso, ci sono tutti i citta che riguardano greed, la attaccamento, le tre caratteristiche fondamentali, insomma, che sono greed, hatred and delusion. Greed, hatred and delusion, che sono greed, attaccamento, hatred, odio e delusion, illusione. Mm. There are many others too, like if the mind is concentrated or not concentrated. Ce ne sono tanti altri che dipendono dal fatto se la mente è concentrata, non è concentrata. Mm. C'è una lista molto lunga. And then the last section is Dhamma, which translates, people translate that as objects of mind. L'ultima categoria è sono il Dhamma, che di solito viene tradotto questo termine come oggetti mentali. But there is some dispute about this. Ma c'è un po' una disputa su questa, a questo riguardo, su questa traduzione. Mm. When you look at the discourse, the Buddha actually tells you what the objects are. Quando si analizza il discorso, il Buddha in realtà ci dice quali sono gli oggetti. You won't be surprised to hear that it's the five obstacles. Non si sorprenderà sapere che sono i cinque ostacoli. The seven factors of enlightenment. I sette fattori di illuminazione. And the four noble truths. E le quattro nobili verità. Yeah. So those are the Dhamma that we are looking at. Questi sono i Dhamma che stiamo considerando. Yeah. Or we are looking at the objects of mind, thoughts, etc., as Dhamma. O osserviamo gli oggetti mentali, quindi i pensieri, eccetera, come Dhamma. Yeah. So, for instance, before we came to meditate, I might have had thoughts about greedy thoughts, which I would have happily indulged. Ora, supponiamo che prima di venire a meditare io potevo avere dei pensieri di attaccamento, cupidigia, che potevo continuare a pensare allegramente, tranquillamente. But now there are objects to observe and to understand and so on. Ma in adesso invece sono oggetti da osservare e da comprendere, eccetera. One of the problems with translating into European thought, Eastern thought, is that in European thought we have separated the mind from the heart. Uno dei problemi di traduzione del pensiero orientale in un pensiero occidentale è che in Occidente c'è stata una cesura, una scissione tra la mente e il cuore. This happened at our Enlightenment in the 18th century. Questo accade nel momento di massima illuminazione del pensiero occidentale nel 18th secolo. The Enlightenment. L'illuminismo. Yeah. Descartes especially we can blame for all this. La colpa particolarmente la possiamo dare a Descartes per questa cosa. In the East, when they say I'm thinking or I'm, you know, I have an opinion, often they will point to the heart, not the head. In Oriente, quando si dice la penso così o un'opinione rispetto a questa cosa, molto spesso la gestualità fa riferimento al cuore, non alla testa. Non alla testa, sì. But for us, the separation between what is happening in our heads as thought and images and what's happening in the heart are two distinct things now. Ma per noi oggi sembra che siano due cose distinte, le cose che ci capitano a livello di testa, pensieri, opinioni e quello che capita a livello del cuore. This wasn't always so. Non è sempre stato così. The Greek word psyche and the English word soul or anima would have meant heart mind. Perché il termine originario psyche è in greco oppure anima, soul in inglese, sta sempre a sottintendere questo doppio aspetto di mente e cuore. They weren't separate. Non era visto in maniera scissa, separata. So separate. So you sometimes get writers in Buddhism who will use the word heart mind as one word. A volte ci sono scrittori buddisti che utilizzano il termine mente cuore, scritto anche in traduzione italiana, come un termine unico, bipolare. Mente cuore. So apologies if I have confused you. Quindi mi scuso se vi ho confuso. You see, for instance, when Sujiva is teaching you, he will be very Eastern. Ad esempio, che possiamo osservare che quando Sujiva ci insegna, no, ha un approccio molto orientale, anche come linguaggio. Credo. There will be some concepts which are different from Western concepts. Ci sono anche alcuni concetti che sono un po' diversi dai concetti occidentali. Claudia, how about you? With regard to the reflection time after meditation. Ah, yes. Is it important or is it useful to repeat or categorize the thoughts that I had during the meditation, or is this not useful or important? Per quanto riguarda la riflessione post-meditazione, può essere utile tentare di elencare, di categorizzare i pensieri che ho avuto durante la pratica? I think so. Then we can see what is obsessing the mind. Penso di sì, perché così riusciamo a vedere meglio che cos'è che sta ossessionando la mente. So, what should happen is that we make a little resolution. what we should do is when we make a little resolution afterwards, is to pinpoint, to be careful when that thought arises again. Quindi quello che dovremmo fare forse quando facciamo questo proposito è di indicare bene quando sorge di nuovo quel tipo di pensiero, quel tipo di situazione ossessiva, in maniera da essere più presenti. See, for instance, if we have an obsessive thought to eat cheese. Ad esempio, supponiamo di avere un pensiero ossessivo che riguarda il mangiare formaggio. So now we say, ah, obsession with cheese. E noi diciamo, ah, c'è un'ossessione con il formaggio. So I'm sitting there, and off I go, eating cheese. Allora, io sto lì seduto, e a un certo punto, tac, ecco che sono là che mangio formaggio. So, I wake up, oh, you see, I wake up immediately. Greed, greed. E allora io mi risveglio immediatamente e dico, ah, cupidigia per il formaggio. See? And then I come back into the body. E rientro nel corpo. Now, remember, we talked about the will or the empowerment. If you catch a thought at the beginning, you will drain it very quickly of energy. Ora, parlavamo di questa dare potere a un pensiero, dargli potere, lasciargli potere. Se noi riusciamo a prenderlo all'inizio, lo depriviamo molto in fretta del suo potere. Mm. If you don't catch it and it gathers energy, then of course it has a lot of momentum. Se invece noi non riusciamo a afferrarlo subito, allora acquisisce una sua carica energetica. And then it's more difficult to stop the mind thinking. Poi diventa più difficile fermare questa mente pensante. So you can see how awake you have to be within your sitting to catch these thoughts. Quindi ci iniziamo a renderci conto di quanto presenti, svegli dobbiamo essere durante la seduta per vederli, per afferrarli questi pensieri. Claudia, secondo. mi succede a volte quando finisco di meditare, magari in sdraio, di avere delle visioni, tipo sogni occhi aperti, e mi chiedevo se è il caso di prestarci attenzione oppure no. What's happening to me is that, for example, when I'm finished meditating, when I lie down, I happen to have visions or images. And, well, what shall I do with them? But you don't get them when you're sitting? No, only when you lie down. Non ce l'hai però quando durante la pratica in seduta. No, no. When you lie down, you are relaxing. Beh, quando ci si sdraia, ci si rilassa, no? Eh? And maybe your attention to the body is relaxing also, to feeling, sensation. E anche l'attenzione al corpo si rilascia, sensazioni, emozioni. So the energy re-establishes itself in thought. E quindi l'energia si ricostituisce sotto forma di pensiero. And the images begin. E inizia questa produzione di immagini. The more strong your concentration, the more strong is the energy in the mind, the more vivid these images are. Più concentrazione c'è a livello mentale, più si dice in italiano vivide sono queste immagini. Mm. Sometimes images in the meditator can grow so strong they actually hallucinate. A volte può capitare nel meditante che sorgano proprio delle vere e proprie allucinazioni. Mm. And sometimes you can hear music as though it's being played out there. Mm. E a volte si può sentire della musica come se la stessero suonando fuori dalla finestra. Yeah. This is how tricky the mind can be. Questo ci fa vedere quanto sottile possa essere la mente. Tricky. come si dice, tricky. No, can it? Ingannevole. It's just that, remember, I always tell you the mind is a liar. So you see, you have to be careful, don't believe it. Always ask, now, is this true? You see? Yeah, it may be true. But don't give it, we say in English, don't give it the benefit of the doubt. Ma in inglese, tradotto in italiano, si dice: forse si dice, diamo il beneficio del dubbio, no? Non diamo il beneficio del dubbio. So, when those images come, you see, just note them as images and come back to the body. Quindi quando sorgono queste immagini, prendiamo nota come immagini e poi ritorniamo al corpo. There's no danger in the body. Nel corpo non c'è pericolo. There was a very famous teacher called Sun Lun. Sun Lun era un insegnante piuttosto famoso. And one day one of his students did cemetery meditations. Un giorno uno dei suoi allievi andò a fare una meditazione al cimitero. In those days, this is going back over the early century, you could still go and see dead bodies and meditate on them. All'inizio del secolo era ancora possibile andare ai cimiteri e fare una meditazione sui cadaveri. And your meditation is just as this body is, so my body will be. La meditazione è semplice, consiste nel dire così come è questo corpo, così sarà il mio. It's a very strong meditation on death. È una meditazione molto forte sulla morte. The instruction is not to sit windward. Not to sit with the wind coming at you. L'altra istruzione che viene data è di, come dire, fare questa meditazione mettendosi sotto vento, cioè non avere il puzzo del cadavere. The instructions are always very good in the scriptures, you know. Le istruzioni che vengono date nelle scritture sono sempre molto accurate, molto efficaci. So he had meditated so much on this that when he went back to his room, he let out a great scream. Aveva meditato in maniera così efficace che quando ritornò nella sua stanza urlò. Because era un grande urlo. He saw a corpse lying on his bed. Perché vide un cadavere che stava sul suo letto. Hallucination. And Sun Lun said to him, there is no danger in the breath. E Sun Lun gli disse, non c'è pericolo nel respiro. So, sometimes these images can be very disturbing. A volte queste immagini possono essere molto disturbanti. So, when you note the image, come into the body and feel the fear, feel the horror, feel whatever is going on here, because this image is an expression of this. Quindi quando noi abbiamo questo tipo di immagine, allora ritorniamo nel corpo a sentire la sensazione di terrore, di orrore, perché quell'immagine è sempre una proiezione di quello che sta accadendo qua. And the feeling here is doubled because of the fear that we have caused by these images. E viene raddoppiata la potenza da cosa? Dalla paura che noi abbiamo che ci viene da quell'immagine. It's like having living nightmares. È come vivere in un incubo. But they won't kill you. Ma non ti uccideranno. So you note it, the fearful image, and come back into the body. Si etichetta quell'immagine terrorizzante e si ritorna nel corpo. As this emotion dies away, the image will also die away. A mano che quell'emozione scompare, anche l'immagine scompare assieme all'emozione. Kelly, how about you? Any questions, any You all right? Yeah. Yeah. Luisa. Ma a me capita sempre nei ritiri che la musica si crea nella mente. Nella vita quotidiana io amo molto ascoltare la musica. E quando arrivo ai ritiri ci sono dei giorni che mi sveglio con un motivo nella mente, ma di solito sono dei motivi che molto vecchi, oppure delle musiche che a me non piacciono, che mi rimangono nella mente. È una cosa molto strana, perché mi capita quasi sempre. About the music, the fact that since in everyday life I enjoy music quite a lot, when I come to retreat, I might wake up in the morning and these melodies in my mind, usually either they would say long forgotten melodies, or either melodies which I don't really like, and they don't like having these records playing in my mind. Yeah. So now you know your mind is not you. Bene, allora adesso sai che tu non sei la tua mente. La mente non è te. The mind is its own conditioning, it produces. La mente ha il suo condizionamento, lei produce. Yeah. So somewhere in the past we have conditioned the mind to listen to this music. In un certo momento nel passato abbiamo condizionato la mente ad ascoltare quel tipo di musica. So it is offering you a service by playing it back to you. E quindi ci sta facendo un servizio e facendocela sentire. If you don't want it to do that, then you might get angry and push it away. Se però non vuoi che la mente ti faccia questa cosa, può darsi che tu abbia della rabbia e che tu voglia allontanare questa cosa. In which case you actually give it some more fuel. In questo caso è come se gli dessimo ulteriore carburante. So one hears the music and then, as usual, you turn your attention away gently, gently away, back to the body. Quindi, come sempre, si sente la musica in questo caso e poi delicatamente si riporta la presenza al corpo. Once I suffered from tinnitus. Tinnitus? What is it? Once, before. I suffered from tinnitus. Io ho sofferto di acufenia. When I was meditating and I listened to it, it was just a little whistle with a scratch. Quando meditavo era una sorta di fischio con un scratch, in italiano come si può tradurre? Un gracchiare, yeah, a little scratch, yeah? So, when my attention became weak, when my awareness of it became slightly weak, suddenly it became a very beautiful tune. Quando la mia attenzione però a quella cosa si indebolì leggermente, questo suono si trasformò in una musica molto gradevole, molto bella. The mind is naturally creative. La mente è naturalmente creativa. Ma infatti anch'io ho questo problema della cuffia, però grazie alla meditazione riesco a, come dire, i primi tempi mi infastidiva molto, perché anch'io ho questo fischio, e proprio grazie al sia rilassamento che alla meditazione riesco a non... cioè, come se fosse una cosa naturale che fa parte di me. Non ti dà più fastidio? Non mi dà fastidio. Ecco. She used to have the same problem about it. But thanks to the practice, meditation, relaxation, yeah, it doesn't bother her. That's the thing, you see. I mean, this is an important insight, you see. Mm-hmm. It's not the object which is causing the suffering. Mm-hmm. Questo è un insight molto importante, perché non è l'oggetto che causa la sofferenza. It's how we relate to it. Ma è come ci relazioniamo a quell'oggetto. Gabriel, grazie. quello che non sto notando è in modo molto curioso, non l'avevo mai notato così, come la mente giudica ogni sensazione che emerge generando avversione o attaccamento quando c'è piacere. Ed è molto sottile, no? Il modo in cui mi porta a osservare quello che emerge. E c'è stato un momento in cui osservavo come la mente giudicava le sensazioni. E quando ero in questa posizione di osservare mi sentivo come al sicuro. Però la sensazione era quasi di attaccarmi allora a questo essere al di fuori che osserva, no? Per sentirmi al sicuro. I get it straight. What I'm noticing more and more is how the mind seems to have this built-in judgment system about each and every sensation that is felt in the body, and the attachment for the pleasurable, and the aversion towards something which is felt as not so pleasurable. Then there is this another level, shall we call it, where I can watch the mind judging these sensations, and this process makes me feel safe. This position. Yes. And another level, I'm also watching, perceiving that there is this sort of an attachment to this position that makes me feel safe. The mind is slippery. La mente è scivolosa. That position is safe. Huh? Ma quella posizione di osservazione è sicura. It's safe from this game of wanting, not wanting. Da questo punto di vista del volere non volere. That attachment or wanting to be there, that wanting, that desire within us to be in that place. Il desiderio di trovarci in quel punto di osservazione, in quel luogo, is a spiritual desire. È un desiderio spirituale. This desire we should generate. Sarebbe un desiderio che va generato. The attachment is still not quite right because there is a sense of self there. L'attaccamento però è ancora qualcosa che non va tanto bene. Perché? Perché c'è un senso di un sé ancora presente. Yeah, but it's a better place to be than the other place. Ma è comunque un posto migliore dove stare rispetto all'altro. The little distance that there is between the witness, the knower, and what it knows. Quella piccola distanza tra il testimone e ciò che viene testimoniato, ciò che osserva. This little distance, I call the nibbanic gap. Io lo chiamo questo gap nibbanico. Gap in italiano non lo so, mi spiace, però questo gap spesso. Questo spazio nibbanico. In effetti mi accorgo proprio che sento il bisogno di identificarmi immediatamente in un attaccamento inteso, poi identificarmi, allora io sono questo, no? Che guarda. Sì. So there is e viene fuori in modo molto this need to identify immediately with this something, with someone that is observing. Yeah, yeah. Don't worry. That's right. Yeah, that's part of the progress of meditation. If you think about it, when we're very little children, the age of three, we identify entirely with the body. Fa parte del processo meditativo, quindi non è il caso di preoccuparsi. Se ci pensiamo, quando siamo bambini più o meno all'età di tre anni, abbiamo una identificazione totale con il corpo. Later on in teenage and as we get older, we begin to separate these emotions and thoughts, especially from the body. The body somehow is down there. Quando noi cresciamo, diciamo teenagers, invecchiamo, iniziamo ad avere una curiosa separazione delle emozioni dal corpo, come se il corpo fosse laggiù e le emozioni da un'altra parte. Sì. So now we're finding a very different position, even outside our thoughts and emotions. Quindi stiamo trovando una posizione ulteriormente diversa, come se fosse al di fuori dei pensieri e delle emozioni. This is what what's his name? Jnanaponika, a very famous, well-known writer, called the Observation Post. Jnanaponika è un scrittore buddista molto famoso che aveva chiamato questo luogo, questo Observation Post, questo posto di osservazione dove stanno le sentinelle di solito. Now, we cannot get rid of that self. Non è che ce ne possiamo sbarazzare. We can lift ourselves out of the body self and the emotional self and the thought self by making the body and emotions and thoughts objects. Noi possiamo sollevarci trasformando il corpo, le emozioni, i pensieri, il fare del corpo, delle emozioni, dei pensieri. It's not transform. It's when you transcend. Transcend is to rising above. Yeah. Non è neanche trascendere, è alzarci al di sopra di. Non è trasformare, non è trascendere, ma è come sollevarsi. Ecco, sollevarsi. When we get to this very strong sense of the watcher, quando noi giungiamo ad avere questa sensazione molto molto forte di colui che osserva, dell'osservatore, there's two ways you can go beyond that to the not self. Ci sono due maniere, si può andare al di là nel non sé. The first one is to continue looking at feelings and sensations, etc. La prima modalità è continuare a osservare le sensazioni, le emozioni, eccetera. And one becomes so focused on the present moment that the reflection of the self disappears. E si diventa così focalizzati sul momento presente che questo riflesso del sé scompare. The other way is to turn your attention. If you're very calm, if the body's very calm, very still, to turn your attention on the feeling, the presence of this self. L'altra modalità è se c'è se il corpo è molto calmo, è di rivolgere. Turn your attention. Yes. Sì, rivolgere l'attenzione al sé. The feeling, the presence. Alla presenza. La presenza. Of self, the presence. Alla presenza del sé. Sì? It isn't so much an image or an idea, it's more of a feeling. Non è un concetto, un'idea, è più un sentire proprio. It's like, for instance, sometimes you might enter a room and feel there's somebody there. Come quando magari entriamo in una stanza e abbiamo la sensazione che ci sia qualcuno. Have you experienced that or is it just me? Avete mai avuto un'esperienza di questo tipo o l'ho fatta solo io? Is there somebody being? You get a feeling? Okay. It's still maybe made by the mind, but there is that feeling. È possibile che sia creato dalla mente, però c'è quella sensazione. It's the not self. It's the not me in the room. Very good. No, very good. These are the sorts of insights, hopefully, that will become clearer to you all as you go during the week. This distinction. Queste distinzioni sono queste sorgenti di insight, di chiara visione, che molto probabilmente si spera sorgano nel corso della settimana, un po' per tutti. Isabella, come va? Molto debole. Debole? Very weak. Allora, mi sono accorta, anche se sembrava scontato, che ogni volta che arrivava un pensiero, una sensazione negativa, ogni volta scappavo sempre, cioè me ne accorgevo ma scappavo subito. E quello che ho fatto adesso è proprio di costringermi a osservarla, ascoltarla e vederla sfumare, perché per me è una cosa nuova, che non è mai successa. E va benissimo. Quello che però mi chiedo è se è normale, se il Buddha ne parla, che queste sensazioni siano così tanto cicliche, cioè si ripresentino costantemente, e come rapportarsi a questo tornare continuamente. Bella, avresti voglia di suddividermi in due frasi, sì, così la traduco. No, ma va bene, l'ho capito, però non mi ricordo più. Ah, ok. Che prima, appena vedevo o sentivo una sensazione, un pensiero negativo, scappavo subito, spostavo l'attenzione, adesso invece sto lì finché non lo vedo sfumare. In the beginning, as soon as a feeling, a sensation, an image which was unpleasant, I was almost compelled to run away from it without realizing that. Now I made the commitment to stay with it and watch it fade away. Very good. This is an advancement. No pain, we say in English, no pain, no gain. No pain, no gain. Cioè, se non fa male, non può esserci miglioramento. La seconda parte era che mi sono accorta della ciclicità, cioè del ripetersi. Non ogni tanto, mostruoso, cioè proprio a palla ancora più di prima di questa cosa, di queste sensazioni, di questi pensieri, e se il Buddha ne ha parlato e come rapportarsi a questa ripetizione. Now what I've realized is that this process seems to go on about in cycles. They come and come again and come again and come again, and I wanted to know whether the Buddha talked about this and how to relate in an effective way to this phenomenon. Conditioning we have in us is all these conditionings we have in us are very powerful. Tutti questi condizionamenti che noi abbiamo al nostro interno sono molto potenti. They're a bit like the computer. With its programs. Un po' come il computer con i suoi programmi. When you press a particular key or a particular instruction, then a program will arise. Basta toccare un tasto e immediatamente parte quel programma lì, o viene data quell'istruzione. Anche senza tasto, proprio. Even without a pushing. Even without pushing, yes, it has its own internal, it has its own little intelligence. Sì, è come se avesse una sua intelligenza interiore, autonoma. Yeah, autonoma. There's no logic to it. Non è che c'è una logica dietro questo. It's as though the energy within the mind, most of which we're completely unaware of, produces these little volcanoes. È come se l'energia all'interno della mente, la maggior parte della quale noi non siamo assolutamente consapevoli che ci sia, produca da sola questi piccoli vulcani. And suddenly we have a very warm sea. E improvvisamente, ad esempio, abbiamo un mare che è molto caldo. And we think warm. Cal. Oh yes, Cal. And we think, oh, finally, no more depression, no more anger. We finally arrived at a beautiful place. Noi pensiamo subito. Finalmente, non c'è più depressione, non ci sono più problemi. Siamo arrivati in un bel posticino. 15 secondi quando vediamo. Hello. Yeah. That's right. Oh well, at best, okay. So this is where we need patience. E qui dove è necessaria la pazienza. Yeah. Which is just the willingness to bear with what arises and passes away. Che vuol dire pazienza più la disponibilità a stare con quello che sorge. There is a distinction between accepting the way things are and resigning oneself to the way things are. C'è una grossa differenza tra l'accettare le cose così come sono e resigning, che vuol dire in italiano è un subire, subire in maniera un po' depressa come sono le cose. Essere annientati, essere schiacciati. No, non è. È non posso fare altrimenti, c'è questo. L'altro invece è accettare quello che c'è. Rassegnazione. Accettazione e rassegnazione, usiamo questi due termini. Yeah. What I mean by this is that if we resign ourselves in the wrong way, it will lead us towards despair. Questo vuol dire, quel che voglio dire è che se noi ci rassegniamo nella maniera sbagliata, questo ci condurrà a un'ulteriore disperazione. But if we accept the way things actually are, then you will always see a potential. Ma se invece c'è un'accettazione per le cose così come realmente sono, allora si vede sempre un potenziale. It's always encouraging to see how in the most desperate conditions of, say, war victims, children can continue to play. Può essere molto incoraggiante vedere come nelle condizioni peggiori, tipo durante una guerra, i bambini continuano a giocare. So there is always the child within us. E quindi c'è sempre un bambino al nostro interno. Volevo chiedere anche, ma quando si sceglie l'accettazione e non la rassegnazione, bisogna farlo stando unicamente con quella stessa sensazione, con la consapevolezza di accettarla, o aggiungendo il pensiero che magari continuando a farlo andrà meglio? Perché questo ti aiuta un pochettino. When we choose to accept instead of resign to a particular sensation, for example in the body, is that to be done by adding to it the thought that maybe doing like that or acting like that, things will get better, which seems to be not helpful, but a sort of a boost or something like that, or just simply being with what is? Well, the best is to be with what is. Beh, la ragionetta migliore è essere semplicemente con quello che c'è. Perhaps we are being too optimistic if we say that things will get better. Forse non siamo troppo ottimisti quando affermiamo che le cose miglioreranno. But we can truly say that it will pass away. Però realmente possiamo affermare che scompariranno, che non perdureranno. It will arise and pass away. Cioè sorgono e come sorgono scompaiono. We can only hope that when it passes away, something more pleasant may arise. Possiamo soltanto sperare che quando quella cosa sarà scomparsa, ne sorgerà un'altra un pochino più gradevole. Remember that on a retreat, these things are bound to come up more strongly, because indeed we are beckoning the heart to manifest itself. Ricordiamoci che durante un ritiro queste cose si manifestano in maniera piuttosto potente, perché noi andiamo proprio, come dire, a stuzzicare il cuore per farlo saltare fuori. Yvonne? Lei? Yvonne? No. Anna Caterina, scusi. Where's Yvonne? Oh, Yvonne is gone. Yes, è scappata. Scusi. Yeah, Anna Caterina. Yvonne è scappata. Allora, Anna Caterina. Anything? Well, today I feel better. Mm-hmm. But yesterday and the day before yesterday, I spent almost all the time with this recurrent feeling of sadness. But a very light and deep sadness, so very in the very background. Not so much being said for this or that. Of course, there are also reasons, but basically something very basic, almost unworkable, something like not to feel fulfilled, basically, and also feeling of everything being unreliable. So something not very strong, not a great unhappiness, but something very basic that it's like a basic lack of joy. Can you translate? So, this has been just a bit heavy, because it was quite strange, because even if there was mental presence observing this, but I don't know, something basically very hard and disturbing. Can you say that in Italian for... Sì, niente, oggi sto un po' meglio, comunque ho passato questi primi due giorni di ritiro con una sensazione leggera ma profonda di dolore, non dolore per questo o per quello, ma proprio dolore, come fondamentalmente non essere contenta e fondamentalmente trovare tutto inaffidabile. Quindi con questo senso di scontentezza, non grave, non tragico, ma unworkable, cioè qualcosa con cui stavo lì, lo guardavo, andava, tornava, lo guardavo, però fondamentalmente è qualcosa che è irriducibile, non c'è niente da fare. I think I would accept those sorts of feelings as spiritual feelings. Potrei accettare questi tipi di emozioni come emozioni spirituali, sensazioni e emozioni. There are feelings to do with there are negative feelings to do with when we realize the way things really are. Sono emozioni, sensazioni negative che hanno a che fare con il il fatto di rendersi realmente conto di come stanno realmente le cose. It's the pain of letting go. È il dolore del lasciare andare. The Buddha often talks about nibbida. Il Buddha spesso parla di nibbida. This is the process of disenchantment with the world. Processo di, Corrado Tessera lo traduce con serena disillusione con il mondo. Mm. And there can arise sadnesses of that nature, which is all part and parcel of realizing, in your own words, that nothing is reliable. E quindi può far sorgere tristezze del tipo di cui descrivi, che fanno parte integrante e costituente della realizzazione che nel mondo non c'è nulla di affidabile. Sometimes when we get that, we can get the feeling of what's the point, for instance, of having relationships. Quando sorge questa sensazione può essere accompagnata anche da un pensiero del tipo, ma allora che senso ha avere relazioni? Because they're unreliable. Perché sono inaffidabili, no? Allora che senso ha? So this leads us to investigate if there is a way of relating to other people which does not include this desire for stability. Allora questo ci porta a investigare se non ci sia una possibilità di relazione con altre persone che è purgata, liberata di questo bisogno. Si capisce in italiano? Di stabilità. Di stabilità, anche se un po' di più. Da quella persona dipende. From that person. From the person, from yourself, from the situation. No, non è solo dalla persona, ma da quella persona, da noi stessi, dalla situazione. I think we get to a more realistic relationship with life if we see it as a continuously creative dance. Penso che si possa avere una relazione più reale con la vita se la si vede come una danza creativa continua. You never know what the next step is going to be. Non si sa mai quale sarà il passo successivo. But if it's a dance, it's okay. Ma se è un ballo, va bene. And if the next step is over the edge of a cliff, that's good. E se il passo successivo è al di là del bordo di una scogliera, va bene. Va bene. Very good. Anything else? No? Anything else? No. Good. Benjamin. Yes, I changed my position. Yes. Is that because of the back? No, because of the knees. Knees, yes, good. And take care of your knees. You only have two. Yes, pain, when pain becomes too much, it just disturbs. You see, there's no point in being with pain unless you are learning from it. Well, that's my problem now too, sorry. Yeah. Is where to draw the line? How That's up to you. That's completely up to you. Nobody can tell you that. Yeah. Sorry, do you want to say? Cambiato posizione, sono sulla sedia, era perché avevo male alle ginocchia, adesso è stata una buona decisione. Dice, ottimo, non ha senso torturarsi, ha senso stare con il dolore soltanto se si è in grado di imparare dal dolore, se no non ha senso. Lei che gli ha chiesto, però come facciamo a sapere se sono giunta al limite? La risposta è, non te lo può dire nessuno, soltanto tu lo puoi sapere. For instance, if I'm sitting here and I'm getting a lot of pain in my knee, then first of all, I will recognize that there is pain in the knee. Pain. Huh? Allora, supponiamo che stando seduto qua abbia molto male a questo ginocchio. Prima cosa, riconosco che c'è questo dolore. Dolore. Mm. And then I will notice that I have some fear. Poi posso osservare anche che c'è anche un po' di paura. Or some aversion. O avversione. So I stay there. I can stay there equanimously. Allora posso starci in maniera equanime. Mm? I can feel both things, and I can see it. And I'm moving my attention from the pain to the aversion, pain, aversion, aversion, pain. Allora posso spostare la mia presenza da dolore, avversione, paura, alternando questa presenza. If the pain stays the same, then the aversion and the fear will slowly die away. Se il dolore rimane costante, allora accade che paura e avversione lentamente scompaiono. When those aversions and fear has gone away, I can now concentrate more, focus more on just the sensations of pain. Quando se ne vanno, allora posso concentrarmi di più sulla sensazione del dolore. I then begin to go into more deeply, more closely to the sensations of pain. Allora posso entrare in maniera più ravvicinata, più profondamente nelle sensazioni del dolore. And as I get closer, my noting begins to change. Pain becomes heat or pressure. E più approfondisco, più il tipo di etichette che io metto iniziano a cambiare, perché da dolore si trasforma in calore, heat or pressure. Pressione. Pressione. So now I can see here. Actually, in the knee, there is only heat and pressure. Allora posso iniziare a vedere che qui nel ginocchio c'è soltanto pressione, calore. That's all. Non c'è altro, c'è solo quello. When I move to the point of perception of likable, unlikable. Quando invece mi sposto al punto di percezione di gradevole, sgradevole. Suddenly, the mind calls it pain. Improvvisamente la mente lo chiama dolore. Actually, there's no pain in the knee. In realtà non c'è dolore nel ginocchio. There's only pain in the mind. Il dolore è solo nella mente. And as soon as I say pain, I have a reaction of fear and aversion. E non appena sorge che dico dolore, immediatamente c'è una reazione di paura, avversione. So now I see. There's the body and there's the mind. E allora inizio, vedo, no? C'è il corpo, c'è la mente. Mm. These two things are two different processes depending one upon the other. Sono due processi distinti che dipendono, interdipendenti l'uno dall'altro. Mm. So these sorts of insights are the insights of deconstructing the human being. Queste sorgenti di insight sono quelle che permettono di scomporre l'essere umano. Mm. And so I see that in the knee there's no me, no mind, there is only feelings. Allora posso vedere che nel ginocchio non c'è me mio, no? Io mio si direbbe, c'è soltanto sensazione. When it becomes pain, suddenly it's my knee is painful. Quando diventa dolore, allora immediatamente si trasforma in il mio ginocchio fa male. So we see the I, the me, is also a mental construct. E allora possiamo osservare che anche l'io è anche lui un costrutto mentale. Okay? So now these sorts of insights come by investigating pain. Queste sorgenti di insight, di visioni chiare, visioni profonde, sorgono attraverso, in questo caso, l'investigazione del dolore. However, if the pain becomes worse and worse, ma d'altro canto, se il dolore peggiora sempre di più. And my fear and aversion become worse and worse. E di conseguenza la mia paura, la mia avversione peggiorano sempre di più. And I become too restless. E divento troppo inquieto. And I cannot focus. E non riesco a essere focalizzato. Then move. E allora cambio posizione, muovo. When you move from a position of pain, remember, do it very slowly so that you see how sensations are changing dependent on the movement from pain to being pleasant. Quando ci muoviamo da una posizione di dolore, ricordiamoci di farlo molto lentamente in maniera tale da poter osservare queste sensazioni che cambiano da dolorose a, non me lo ricordo, neutre o non dolorose. From being painful to being pleasant. Dolorose a piacere. And to see how the mind, the heart mind, is changing from being agitated to being calm. E osservare come la mente cuore passa da uno stato di agitazione a uno stato di calma. Dependent on sensation. Ma questo è dipendente dalle sensazioni. In the same way, we can sometimes observe how the mind affects the body. Allo stesso modo, possiamo osservare come la mente influisce sul corpo. So suddenly we have, say, angry thoughts, and when we come into the body, we can feel the heat and the restlessness. Possiamo avere pensieri rabbiosi. Quando ritorniamo al corpo, possiamo percepire calore, irrequietezza. Ok. Ok, Benjamin? Danilo. Francesco, vai. Per dire una cosa per questa qua del dolore. Io ho notato che se la concentrazione è stabile, il dolore, cioè c'è dolore, non c'è sofferenza, no? Ecco. No. Questo mi è capitato nella seduta di prima, perché sono stato tutto il tempo senza muovermi, cosa che non mi capita mai. Quindi niente, voglio dire questa cosa qua. Concentration is stable. There is pain, but there is no suffering. That is what I discovered in this last sitting, but I didn't move. Usually I do move. Yeah. Very good. You see, there is an end to suffering. The third noble truth. Quindi questa è la terza nobile verità. C'è un termine alla sofferenza. Sì, sì. Non capita sempre, cioè, una cosa, non dico rara, però è... It doesn't always happen. It's true, but at least there's a little insight. Sì, è vero, ma quantomeno è un piccolo insight. A little window to possibilities. Una piccola finestra per le possibilità. Anything else? Francesco. Altro, Francesco. Sì, volevo dire qualcos'altro, ma forse il discorso diventa lungo. Non ho capito bene la differenza tra osservatore... C'è una differenza, cioè come sono connessi tra di loro quei termini, l'osservatore, il sé, la mente, come le faccio. It's not so clear to me how these terms relate, the witness, the self, the mind. Yeah. Cioè, se si tende per sé, cos'è il sé per questo caso? Cioè, in this particular, what is the self? La personalità, oppure si intende qualcosa di più? Is it the personality or something else, something more? Yeah. I will speak more about that in an evening talk. Ne parlerò di più in un discorso serale. Yeah. But in the simplest of terms, the self is as big as your delusion is of yourself. Ma per dare un'idea, il sé è tanto grande quanto la nostra illusione di noi. It's a mental construct that we have about ourselves. è una costruzione mentale che noi abbiamo rispetto a noi stessi. Even at a physical level, if my body is whole, this is myself. Anche a livello fisico, se il mio corpo è è un insieme, questo io sono io. If, as I'm walking along the street, my leg falls off, se camminando lungo la strada perdo una gamba, just for a moment I've lost a little bit of myself. Anche solo per un momento ho perso un pochino di me stesso. But when I realize I can keep living without the leg, myself reestablishes itself. Ma quando realizzo che io posso continuare a vivere senza una gamba, il mio sé si ricostituisce in quella nuova forma. But I shall go into that in more detail. Ma approfondiremo in più dettaglio questa cosa. Danilo. Okay. Niente? No, vado piano piano. Buona. Sono ancora sull'oggetto di oggetto primario di meditazione, quindi vorrei chiedere cosa intende proprio specificamente quando si manifesta un qualcosa, poi ritornare gradualmente sull'oggetto primario del corpo, vuol dire ritornare sul scendere, sul salire dell'addome, immagino. So I'm going slowly, and I wanted to know actually what it means that when we have to come back to the primary object in the body, does it mean coming back to the rising and falling of the abdomen? You're watching it here, though. I'm trying. You tried here. No, sto cercando di cambiare perché in effetti è vero, perché se respiro qua quando c'ho poi un po' di agitazione, respiro più forte e la testa. Probabilmente il cervello c'entra troppo ossigeno e quindi è molto meglio. E il venerabile l'ha detto che è meglio essere nel cuore. Good. Si può sperimentare, però ci sto provando. Experimenting with that, because it seems to be, you know, quieter. If you don't stay at the nostrils, but put it down because you have done. Yeah, yeah. Good, yeah, experiment. The breath is, we call it in the Mahasi system, we call it the primary object. Nel sistema di Mahasi, il respiro è considerato l'oggetto primario di presenza. What we mean by that is that we begin with the breath. Quello che si sta a indicare è che si incomincia con il respiro. When everything is calm and peaceful and quiet, there is only the breath. Quando tutto è calmo e tranquillo, c'è solo il respiro. And whenever the mind wanders, we begin again at the breath. E quando la mente se ne va, allora si ritorna e si ricomincia dal respiro. You'll also hear it being called the anchor. Si trova anche definito come l'ancora, punto di ancoraggio, il respiro, per ancorarsi. Per ancora? Ah, sì, sì. So, yes, when you move from one place to the other, it takes sometimes a little time to establish this concentration habit on the breath. Quando ci si sposta da un punto a un altro, ci va un po' di tempo per stabilire questa abitudine concentrativa sul respiro. For concentration to develop, it needs one object. Per poter sviluppare la concentrazione è necessario un oggetto. Yeah, that's why you will always hear teachers say, "Don't move from one to the other." Questo è il motivo per cui si sente sempre che gli insegnanti dicono di non spostarsi da un oggetto a un altro. Yeah. So once you choose one, then you stay with it. Una volta che ne hai scelto uno, stai con quello. If in the next retreat you want to change, fine. Se il prossimo ritiro vuoi cambiare, benissimo. Huh? In your case, it's fine. C'è una domanda però filosofica. Se uno è consapevole, può fare qualunque cosa, vuol dire. Yes. If one is aware, mindful, you can adjust about anything, right? You can adjust to just about anything. Yes. Absolutely. See? Okay. Yeah. Thank you. Absolutely. No, but also indulge in. Quello che voglio dire. Perché molti lo dicono. Anche indulgere in cose. Ah, anche indulgere. Mangiare tanto formaggio. Translate. You. So, if you're mindful, you can also indulge in just about anything. Eat lots of cheese and that sort of stuff, right? Yes, you can. Sure. Yes, and you realize that actually you're killing your body. E inizia a realizzare che stai uccidendo il tuo corpo. And then one would ask oneself, is this wholesome or unwholesome? E allora uno a un certo punto si chiederebbe, ma questo comportamento è wholesome, come lo possiamo tradurre in italiano? Salutare o non salutare? And then hopefully the person will decide it is not wholesome and will stop eating cheese. E poi si spera che la risposta che la persona dà sia no, non è un comportamento salutare, yeah, e la smetta di mangiare. Remember that this awareness that we are developing is also is not to be separated from wisdom. Allora, ricordiamoci che questa consapevolezza di cui noi parliamo non è mai non va mai separata dalla saggezza. The awareness is a new way of relating to the world. La consapevolezza è una nuova modalità relazionale con il mondo. Awareness isn't neutral. Right awareness is not neutral. La retta consapevolezza non è neutrale. It's virtuous. È virtuosa. Yeah. Wisdom, goodness and beauty. Allora, saggezza, bontà e bellezza arise naturally with Buddha nature. Sorgono spontaneamente con la natura del Buddha. Wisdom, goodness and beauty. What do we actually mean with beauty? That which is orderly, pleasing. Ciò che è. Makes one happy. Orderly. Gradevole. Ti rende felice. Orderly non lo si traduce. But remember that. Armonioso. Yeah. Remember that this beauty. This beauty. This sense of beauty reaches even to dogship. Ricordiamoci che questo senso di bellezza lo si relaziona anche agli escrementi dei cani. There is no. Anche nell'escremento di un cane c'è bellezza. If you can see beauty in the excrement of a dog, then we're getting close to the beauty of nature in its fullness. Se si riesce a percepire la bellezza nell'escremento di un cane, allora ci si sta avvicinando a quello che si intende con questo termine di bellezza. Per favore, che cosa avevi detto prima in termini di bellezza? Sì, lo potrei ripetere se me lo ricordassi. Ma siccome non me lo ricordo, non sono in grado di ripeterlo. C'è qualcuno che è in grado di ripeterlo? The characteristics of beauty. Oh, orderliness. Order. Orderliness. Order. Yeah. Harmony. Harmony. Orderliness. And that which pleases. that which raises joy. È ciò che fa sorgere, che è piacevole, o meglio ciò che sorge, fa sorgere gioia. Remember, beauty is all in the mind. Ricordiamoci che la bellezza è nella mente. It's remember that we're creating this world for ourselves. Ricordiamoci che noi creiamo il mondo per noi stessi. I'm trying to remember names. My head won't remember names. Claudio. No, niente. I've always had a difficulty remembering names. Sempre avuto problemi a ricordarmi I nomi. This wasn't very good for my job used to be a teacher. Non andava molto bene siccome facevo l'insegnante il mio lavoro non era una buona qualità. And I used to worry and become very embarrassed by it. Era una cosa che mi preoccupava molto e mi faceva sentire piuttosto in imbarazzo. Until I came across an article which pointed to a certain disease. Fino a quando non ho letto un articolo che indicava una patologia specifica. Nominal aphasia. Tradotto in italiano si potrebbe dire afasia nominale. Nominale. So excuse me, I suffer from nominal aphasia. E quindi mi dovete scusare, ma io soffro di afasia nominale. Ero malata anch'io, non lo sapevo. Anch'io. So from now on, tomorrow from now on, I'll have more individual interviews. Allora da domani I colloqui saranno più individuali. Just individual. Saranno solo individuali, scusate. So we spent a bit of time. Maybe you can ring the bell at, say, 5 minutes, 12:05. So we have 15 minutes just to relax and do some walking meditation. Abbiamo quei 15 minuti per fare meditazione camminata, rilassare, poi ritorniamo qua. Okay.